Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Due di notte. Avevo scolato l'ultima birra del frigobar della mia stanza d'albergo. La televisione non era di alcun aiuto, la radio trasmetteva terrificanti musichette locali e mi ero davvero stufato di girarmi e rigirarmi nel letto. Mi chiamo Roberto Giulietta, sono di Torino, ho 42 anni e mi occupo di consulenza finanziaria. In quei giorni andavo a casa, di casa in casa, per cercare potenziali clienti per un corso d'inglese. Suono all'ennesimo campanello e compare questa vecchietta di circa 80 anni. Dopo un breve scambio di parole mi dice: caro, si sente che sei buono, che vuoi bene alle persone, ce ne fossero come te, che trattano con rispetto anche una povera vecchia come me. Di solito quelli che suonano per vendermi qualcosa parlano difficile, invece tu mi hai parlato come fossi un nipote. Ha aggiunto anche altro, ma queste parole mi hanno colpito di più. In quei giorni ero stato trattato un po' come un testimone di Geova. Certo che sono presi a riferimento, poveracci, perché vanno in giro e suonano il campanello della domenica mattina, che poi non è vero che suonano il campanello la domenica mattina. Vabbè, ero stato trattato come un testimone di Geova, un venditore ambulante, e guardato con diffidenza. L'aver fatto sentire a suo agio quella vecchietta è bastato a ripagarmi moralmente delle fatiche che facevo. Sono le 16:08 minuti di un bel venerdì di metà aprile. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, il programma si chiama Voi siete qui. Oggi, ogni giorno raccontiamo una storia, e oggi raccontiamo la storia di Roberto, che parla di quelle piccole pieghe della vita in cui ci si ritrova in un posto magari che non conosciamo, da soli, e incontriamo uno sconosciuto che rimane tale, nel senso che non diventiamo amici, però c'è un piccolo scambio di qualcosa, noi a lui e lui a noi, che rimane nella nostra vita e ce lo portiamo dietro e per qualche motivo ce lo ricordiamo. 349-238-6666 è il numero per mandare gli sms, ve lo ricordo, non per telefonare, per telefonare c'è un altro numero, ma quello ve lo diamo quando ci serve sostanzialmente. Altrimenti c'è un profilo Facebook, se siete davanti a un computer, cosa molto probabile essendo la fine della settimana, essendo le 16, tra un'ora probabilmente uscite dall'ufficio ufficio, o magari siete già fuori, avete uno smartphone in mano, magari non in macchina, o meglio, magari non mentre state andando in macchina. E allora andate sul nostro profilo Facebook, e Voi siete qui, Radio 24. Le storie di quegli sconosciuti che vi ricordate di più. C'è un tizio, uno sconosciuto, di cui non ricordate nemmeno il nome, magari non ci avete nemmeno parlato, eppure in qualche modo ve lo ricordate. Sentite questa di Stefania. È successo circa un mese fa. Mi dirigo verso i 4 binari ferroviari che ci sono all'interno dell'aeroporto di Colonia. Mi si affianca uno sconosciuto camminando e camminiamo tutti e due verso il treno. Alla stessa pensilina ci fermiamo ad aspettare il treno, ovviamente. Io non riesco a non osservare quest'uomo. Alto, carnagione chiara, occhio di ghiaccio, nessuna imperfezione sul viso. Una riga perfettamente dritta divide ciocche di capelli esattamente simmetriche. Mi colpisce il fatto che ha solo l'ovale del viso scoperto. Un lungo soprabito nero lo copre dal collo fino alle caviglie. Ha un pantalone nero e una scarpa nera con punta rinforzata, lucidissima. Neanche le mani sono scoperte, porta guanti neri di pelle aderenti e sotto braccio tiene una cartellina nera di pelle morbida. Non è un porta iPad, intravedo strumenti di ferro appuntiti. Muove questa cartellina e sento un rumore di ferro. Se non fosse che sono le 4 del pomeriggio in una stazione con un bel sole che filtra dalle finestre, penserei di avere Jack lo squartatore esattamente di fianco a me. Non so esattamente che cosa ha lasciato questo sconosciuto nella vita di Stefania, forse un po' di terrore, ma tant'è. 349-238-6666. So invece che cosa ha lasciato la sconosciuta, che sinceramente spero non rimanga tale, che ho incontrato. Eravamo con Tiziano, quindi l'abbiamo incontrata tutte e due qualche giorno fa a Roma, eravamo infatti non a caso in diretta da Roma, quando era martedì, e abbiamo incontrato questa ragazza che ci ha raccontato in una situazione conviviale insieme ad altre persone un episodio della sua vita, che è un episodio piccolo ma che di fatto io e Tiziano ci raccontiamo a distanza di giorni, pressoché tutti i giorni. Lei e il compagno hanno avuto due figli, la storia è molto semplice, hanno avuto due figli e li hanno chiamati con nomi davvero di lotta, come diceva lei. Della serie non diamo definizioni ideologiche o nomi ideologici ai figli. Hanno chiamato la figlia Lucia, che in spagnolo significa lotta, e il figlio Vladimir. Quando l'abbiamo chiesto perché l'avesse chiamato Vladimir, lei ci ha risposto per Majakovskij, ovviamente. Poi però ci ha anche raccontato come si è evoluto questo nome nella città in cui vivono, che è Napoli. Vladimir ha 7 anni, fa judo, e nella palestra di judo dove lo accompagna, l'ultima volta che lo accompagna lo lascia, e quando le porte si chiudono sente da dietro i compagni di judo che cominciano a urlare: presidente, oh presidente, oh presidente, è arrivato presidente. Lei lo torna a prendere e gli chiede: Vladimir, chi è sto presidente? E lui risponde: mamma, sono io, o presidente. E ovviamente lei, che ha deciso di chiamarlo Vladimir per Majakovskij, si è trovata il figlio soprannominato presidente per Vladimir Putin. 349-238-6666. Lei è una sconosciuta che mi ricordo, ma ce ne sono tanti in realtà di sconosciuti che vorrei sapere che fine hanno fatto. Tiziano, non mi ricordo più che tempo ci eravamo detti. Ok, quindi siamo praticamente arrivati pronti a raccontare la storia di Roberto. Vi ricordo che l'argomento è molto semplice. Ogni giorno noi prendiamo dal racconto che ci arriva e di cui facciamo una puntata un cuore, un tema. Il tema di oggi è lo sconosciuto che avete incontrato nella vostra vita e che vi ricordate di più. Due di notte. Avevo scolato avidamente l'ultima birra del frigobar della mia stanza d'albergo. Il sonno non voleva saperne di arrivare. La televisione non era di alcun aiuto. La radio trasmetteva terrificante musichette locali. E mi ero davvero stufato di girarmi e rigirarmi nel letto. Basta, mi vesto ed esco. Scendo in pochi secondi dal 54° piano dell'albergo e vengo accolto dall'ambiente quasi asettico e fastidioso di una hall completamente rivestita in marmo color ocra. Si spalancano le porte e vengo investito dalle luci intermittenti di Tokyo. A Tokyo ero andato per lavoro e niente, un po' di riunioni. Ci ero andato per lavoro e per opportunità, tra virgolette. Era la prima volta ed è stata anche l'unica, l'ultima che ci sono andato. E onestamente non avrei neanche voglia di tornarci, devo essere sincero. Senza meta precisa decido di andare a destra e inizio a camminare per un viale del quale non si vede il termine. Perfetto, penso, almeno evito di perdermi. Dopo una mezz'oretta di vagabondaggio senza meta e l'ennesima birra Asahi, vengo incuriosito da un palazzo sull'altro lato della strada, in stile quasi greco, con enormi colonne con capitelli dorici in cima e una scalinata, una sorta di imponenza simile a quella del Partenone. Attraverso e mi trovo ai piedi della scala. Il palazzo non è illuminato direttamente e nella penombra vedo una sagoma seduta su uno scalino, con il volto tra le mani. È una ragazzina ben vestita, con la classica bellezza orientale, gli occhi a mandorla, pieni di lacrime. Non so perché, ma appena vista piangere, mi è venuto in mente Sting, quando cantava che anche i russi amano i bambini. Ecco, per me era quasi impossibile pensare che anche i giapponesi piangessero. Chissà perché. Li ho sempre immaginati e visti come duri, puri, dignitosi. E vederne una piangere mi ha davvero stupito. «Do you speak English?» le chiedo. «No», mi dice lei. «Hablas español?» «No». «Parlez-vous français?» «Oui». Finalmente un punto di contatto. Le chiedo cosa succede e perché è lì sola a piangere. Ovviamente la risposta è che il suo fidanzato l'ha appena scaricata. Mi siedo vicino a lei ed iniziamo a chiacchierare. Le porgo un fazzoletto e lo uso con il tipico e classico contegno giapponese. Lei ha 20 anni, io 35. Lei studia economia, io ho finito da un pezzo. Adora il sumo, le discoteche e la cerimonia del tè. Lentamente ed in modo quasi impercettibile si avvicina a me, seduto alla sua sinistra. È la metà di settembre, la serata è molto gradevole, quasi fresca. Le strade sono deserte. Solo qualche pattuglia della polizia passa e ripassa davanti a noi, forse insospettita. E insomma, era lì che piangeva tutte le sue lacrime, poverina. Onestamente non è che ci fosse molto da immaginare, da capire. Era essenzialmente una ragazzina bellissima, graziosissima, tipica orientale, con veramente un visino meraviglioso e tutta curata, tutta perfettina, eccetera, che mi ha lasciato molto perplesso vedere piangere così. Cioè, più che perplesso, mi ha intristito. Continuiamo a chiacchierare. Io continuo a fumare, preoccupandomi di non buttare in terra i mozziconi e domandandomi come mai in Italia non mi è mai nemmeno venuto in mente di togliere la brace e la cicca fumata e di buttare il filtro spento in un cestino. A un tratto guardo l'ora, sono le 4:30. Fra 4 ore mi aspettano per la prima riunione della giornata, che sarà parecchio lunga. La saluto, le do un bacio sulla guancia, lei lo accetta e contraccambia con un inchino a mani giunte. Scendo gli scalini con le mie cicche in mano e me ne vado. Sono sicuro che ci sia in giro per il mondo una ragazza giapponese con un fazzoletto italiano che ricorderà una notte di lacrime confortata dall'invadenza di un torinese che è riuscito ad alleviare per qualche ora la sua tristezza passeggera. Imaginary love to start with. Chissà che cosa stanno facendo adesso le persone che abbiamo incontrato una sola volta nella vita. Sconosciuti che, come nel caso di Roberto, incrociano la nostra strada per un breve momento oppure anche solo per una giornata. Uomini o donne che ci rimangono impressi perché sono stati per noi o magari noi per loro un momento di sollievo o di svago, o ci hanno detto qualcosa che ci ha aiutato, che magari ci ha migliorato un po' o reso meno scemi. Provate a pensarci per un attimo. Qualcosa tipo un signore incrociato in aeroporto o una ragazza con cui avete condiviso un vagone su un treno. Il tizio seduto di fianco a voi a un esame importante o uno spettatore incrociato ad un concerto. A me piacerebbe sapere che cosa stanno facendo adesso diverse persone che ho incontrato una sola volta nella mia vita, che però hanno lasciato un pezzo della loro nella mia. Ad esempio, chissà cosa starà facendo quella signora di colore che ho incontrato in una chiesa ad Harlem anni fa, una chiesa in cui io facevo lo spettatore, invece lei seguiva la messa e cantava. E quando si è accorta che io mi ero commosso, mi abbracciò con il suo abito giallo e la sua sesta o settima di reggiseno, dicendomi: "You are feeling the spirit, brother, you are feeling the spirit." O chissà cosa starà facendo quel ragazzo che, quando ho fatto l'ultimo stupido incidente in Vespa, in cui mi sono ritrovato a terra perché l'auto di fronte a me aveva fatto una curva senza usare le frecce, lui si fermò e mi scrisse il numero su un biglietto, dicendomi: "Guarda, se hai bisogno di un testimone, io ho visto che avevi ragione tu." Chissà cosa starà facendo. Ma chissà che starà facendo adesso anche quella signora che anni fa cadde sulle scale della metro e io l'aiutai a rialzarsi. Era anziana e spaventata. Le chiesi se voleva un'ambulanza, lei invece preferì un taxi. Ma che cosa starà facendo anche la ragazza che ho visto portare un cucciolo di cane in aereo? E quando le ho chiesto se era il suo, lei mi ha detto che ne aveva già due, ma l'aveva trovato nel cortile di una fabbrica abbandonata e non era riuscita a lasciarlo lì. Ma chissà cosa starà facendo anche Bruce Springsteen in questo momento preciso. L'ho incontrato una volta sola, eravamo a 200 metri di distanza, lui sul palco, io sugli spalti dello stadio di San Siro insieme a mia mamma. E comunque da quella sera lì, anche grazie a lui, io e mia mamma siamo un po' più vicini. E chissà cosa staranno facendo tutti gli altri. Tutti quelli che ho incontrato, con cui ho scambiato qualche parola o un pensiero, e poi sono spariti per sempre, e io per loro. I have married broken spoke, charging smoke wheels, spit and swallowed opioid. I am the driver at the wheel of the order, marching circles at the gate. My eyes have seen the fury, so flattered by fate. Chiara da Trieste mi scrive: uno sconosciuto mi ha consigliato al Vinitaly uno stand dove ho degustato il vino migliore della giornata. Di solito sono quelli degli stand che ti consigliano il loro vino, però evidentemente non è così. Maratona di Mont Saint-Michel mi scrive non so chi: ultimi 20 km insieme a un locale, il tutto inizia lui che mi porge la sua acqua e finisce con il taglio del traguardo abbracciati. Chissà che fine ha fatto 349-238-6666, ma soprattutto chissà che fine ha fatto quella ragazzina lì che piangeva perché il suo fidanzato l'aveva lasciata e di cui Roberto ci ha raccontato la storia. Pronto Roberto? Eccoci. Come stai? Molto bene Matteo, tu? Benone, dove sei? Sono a Torino, in questo momento a casa. Fortunatamente mi hanno operato una piccola operazioncina questa mattina, quindi diciamo che il vostro programma mi aiuta a sentirmi un pochettino meglio. Ah, ma stai bene comunque, Roberto? Non sapevo niente. Nessuno mi ha detto niente di questa cosa. No, altrimenti facevo la scena. Roberto, come niente stai? Per fortuna niente di grave, semplicemente un piccolo interventino, niente di strano. Insomma, continui, sei qui e lotti insieme a noi. Eh sì. Che cosa fai nella vita, Roberto? Mi occupo di consulenza finanziaria. Aia. Già, non è il periodo proprio dei migliori. Roba pesante, per questo stai a casa nascosto. No, per fortuna no, io mi occupo del resto, devo cercare di dare dei soldi alle aziende piuttosto che toglierli, quindi diciamo che sono abbastanza ben visto. Ah, ok, quindi tu però fai... Però non sempre ci riesco. Ad esempio, quindi la riunione che hai fatto a Tokyo, eri lì perché delle aziende avevano bisogno di soldi e tu cercavi il modo per darglielo? Più o meno sì, nel senso che era un'azienda che aveva comprato un macchinario, aveva dei problemi e quindi eravamo andati a vedere un attimino cosa era possibile fare, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista tecnico. E lavori per una società o sei indipendente? Bene o male, sì, per una società. Come si diventa consulenti finanziari? Ma innanzitutto bisogna finire un'università o perlomeno avere una gran passione per i numeri, per queste cose qua. Okay. E poi niente, sì, le strade sono sempre le più strane, quando le filmo uno, non sa, o meglio, io non sapevo quantomeno che cosa avrei fatto da grande. E mi sono trovato nessuno. Mi sono trovato ci sei arrivato. Quello, mi è piaciuto e bom. E poi basta, e poi smetto di chiedere, mi dici che cosa, non che cosa fai inteso come le operazioni che fai, ma come si svolge la giornata di un consulente finanziario? Cioè passi più tempo davanti a un computer o a incontrare persone? Essenzialmente a incontrare persone, per fortuna, anche perché non riuscirei a passare una giornata intera davanti ad un computer. E però con queste parli di denaro. Esatto. Di investimenti. Esattamente. È vera la storia, scusa, poi ne approfitto perché ci sono. È vera la storia secondo cui in realtà non è vero che non ci sono soldi, ci sono capitali in giro, ma si fa fatica a posizionarli o a investirli? Ma guarda, io essenzialmente mi occupo di mettere in relazione le banche con le aziende che ne hanno necessità, quindi essenzialmente io mi occupo molto poco di quello che è la finanza extrabancaria, okay. Però certamente fondi ce ne sono molti. Invece, torniamo a Tokyo, dicevi è stata l'unica volta che ci sei stato a Tokyo. È stata l'unica volta che ci sono stato, sì, ma è stato diciamo un giro completo tra Tokyo, Nagano, mi sono fermato anche in un posto chiamato Hamamatsu, per esempio c'è stato che una mia carissima amica di infanzia si è sposata un giapponese, lì abita, okay. E insomma ho fatto un bel giro. Si vede, Roberto, che sei abituato a fare delle relazioni a qualcuno, perché sei precisissimo e vai come un missile proprio. Diciamo che il tempo dicono sia denaro. Poi mai per uno come te. Perché dicevi che non ti entusiasmava particolarmente Tokyo? Ma essenzialmente ho vissuto un contrasto incredibile tra quella che era la parte antica, quindi la parte ancora in legno praticamente, con i grattacieloni, e onestamente per me è un contrasto troppo forte, a me piacciono le cose più in uno stile o in un altro, non riesco a vedere le miscele. Un po' come Torino, è Sabauda ed è Sabauda, punto, esatto. non è che c'ha altra roba in mezzo. E questo è tutto campanilismo, sì, esattamente come Torino, è Sabauda ed è Sabauda. Dimmi invece di solito quando viaggi, dove viaggi e se ti capita di passare del tempo come in questa storia da solo in albergo, perché questa è una situazione, ne parlavo prima con Tiziano, che è molto frequentata, soprattutto da quello che dicono i dati, poi in realtà questa radio è ascoltata da moltissima gente, però in teoria i dati dicono che moltissime persone che fanno un certo tipo di lavoro ascoltano questa radio, sono persone che incontrano clienti, stanno da soli in alberghi e vivono questa vita un po' sospesa. A te capita di farlo di frequente? No, per fortuna non più, nel senso che adesso sono più stanziale, per fortuna sono stanziale, quindi in parole povere giro come un matto in macchina, però in ogni caso viaggi, voli, alberghi per fortuna me li sono limitati. Quella ragazza aveva qualcosa comunque, no? Diciamo che ci intrigava. Ma essenzialmente diciamo che io sono la persona classica alla quale tutti vengono a raccontare i fatti propri, e quando qualcuno non lo fa vado io a cercarmeli, e quindi alla fine sì, aveva qualcosa di particolare, era proprio una tenerezza, non so bene perché, ma proprio sprigionava tenerezza. E allora dimmi invece perché cos'hai tu perché tutti ti vengano a raccontare i fatti propri? Non lo so, forse un cane simpatico. Però a prescindere dal cane, perché anche quando non ce l'avevo era la stessa cosa. Non lo so, evidentemente ispiro fiducia. Mi ricordi quanti anni hai, Roberto? 42. Ispiri fiducia, anche quello chiaramente è una derivazione del mestiere, immagino, perché se tu non ispirassi fiducia... Ma diciamo che perlomeno, presso i miei amici tutti mi vengono a raccontare i fatti loro perché sanno che me li tengo. E quindi okay. Non ho mai raccontato nulla in giro di quello che mi veniva raccontato, okay, okay, evidentemente le altre persone è una questione qualcosa di carattere. Senti, tu sei sì, ce l'hai uno straccio di fidanzata? O... Assolutamente no. Assolutamente no, va bene. E dall'assolutamente mi sembra di capire che o ce l'hai su con qualcuna oppure semplicemente stai contento così. Ma diciamo che né l'una né l'altra, non ce l'ho più con nessuno e non sto neanche tanto bene così, però tutto sommato adesso è così. Roberto, riprenditi dalla tua convalescenza, stai grazie bene, grazie di tutto, ciao, grazie, buona giornata. Matteo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Mi scrive Gabriele. No, non è Gabriele. Non si firma, però mi racconta, a proposito di sconosciuti incontrati per caso, Gabriele, un muratore anziano che aggiustava il cortile della mia scuola elementare. Questa te la devi proprio ricordare per andare a scavare la memoria. Le mie compagne, una alla volta, si avvicinano e si fermano tutte lì da lui. Io mi dico che non devono parlare agli estranei. Poi una viene a chiamarmi, mi dice che quel signore è proprio simpatico e di andare con lei. Riluttante e a distanza la seguo. Arrivo, mi saluta e iniziamo a parlare. Ancora oggi, dopo più di 30 anni, lo ricordo come un angelo mandato per me. Ecco, una storia simile a questa è la storia che vogliamo sentire da voi oggi. Voi siete qui. È veramente splendido Roberto nella foto che ci ha mandato. Ma non splendido nel senso che è bellissimo, certo è anche un bel ragazzo, ma è che è proprio uno splendido in questa foto. Rudy ha capito cosa intendo. Esatto, un po' tac, devo dire. Nella foto Roberto è su un motoscafo coperto da un tendalino, quindi ha l'ombra che lo copre, dietro di lui un mare e delle colline verdissime assolate. Lui c'ha su una bella Lacoste blu, tac, una bella. Ce n'è un'altra online? Come ce n'è un'altra? Me lo dite adesso? Sono due, allora facciamo così, stai lì, non, stai lì, finisco questa perché è veramente magnifica, poi descrivo anche l'altra. Chiudo, è sul motoscafo e la roba che lo rende più favoloso, più splendido è il braccio appoggiato da una parte, la mano appoggiata dall'altra, tac. E questa è una, ma quella che trovate in realtà sul sito della radio è tutt'altra ed è questa qua, è, beh, ma splendidissimo anche qui Roby. Camicia bianca, tac, volto abbronzatissimo, però qui è di sera, secondo me è sempre la stessa vacanza però, ha su immagino dei Bermuda perché si tiene, sapete quando vi tenete la gamba, come dire, il ginocchio tra due mani, quindi è un po' splendido appoggiato, camicina bianca fatta su, volto abbronzato, è splendido come mai e soprattutto ispira una grandissima fiducia. Sconosciuto. Aggettivo e sostantivo maschile. Chi non si è mai visto e conosciuto prima, misterioso, ignoto, inesplorato. Di persona di cui prima non si è mai sentito parlare. Letterario, misconosciuto. Persona di cui si ignora l'identità. Etimo, participio passato di sconoscere. Data, secolo XIV. Ecco, Roberto è esattamente il contrario di questa definizione. È uno che ti sembra di conoscere, è uno che da qualche parte l'hai già visto. Tac, non so dove, ma un po' lo conosci. Roberto, guarisci bene e con calma. Voglio leggervi una storia. No, un attimo, prima di leggervi una storia che è arrivata via mail, vi leggo qualche messaggio. Quello di Mari di Bergamo, ad esempio, che è un bel messaggio. Ero in tram a Milano. A un certo punto un uomo piuttosto alterato comincia a importunarmi e io mi sento minacciata. Una signora seduta vicino a me interviene dicendo di lasciarmi stare, spacciandosi per mia mamma, dicendo che ero sotto la sua protezione. Mi parla per calmarmi, il tizio se ne va e poi tocca a me scendere. Una volta arrivata alla mia fermata la ringrazio per avermi fatto da mamma per quei 10 minuti. La mia di mamma era mancata la settimana prima. Mare di Bergamo, chissà dov'è quella signora adesso. Francesco scrive: il mio sconosciuto è quello che mi ha salvato la vita accompagnandomi in ospedale dopo un incidente in moto. Penso a lui tutti i giorni e chissà dov'è anche lui. 349-238-6666. A militare, questa è un po' meno drammatica, a militare mi è capitata una coppia sconosciuta che mi ha offerto vino e torta per la mia festa di compleanno che stavo consumando a cena con i miei commilitoni. Non so chi fossero, ma devo nuovamente ringraziarli perché mi hanno fatto sentire per un attimo l'affetto mancante dei miei genitori che erano molto distanti. Emilio da Milano. Questo però ha un po' a che fare anche con quell'aura che aveva, adesso non più, il militare. No? Nel senso che adesso il militare di leva non esiste più, sono solo militari giustamente pagati che lo fanno di mestiere, però il militare di leva l'ha sempre visto un po' come un figlio. Io mi ricordo, dalle persone più adulte ovviamente, non da quelle che c'erano alla mia età, io mi ricordo una volta su un autobus a Novara una scena per cui c'è questo ragazzo che ha in mano il congedo, sapete quel tubo verde tricolore, verde, rosso e bianco, sale il controllore e lui comincia a dire subito: guardi, non ho il biglietto, non ce l'ho. Il controllore controlla i biglietti di tutti gli altri, non gli dice niente, torna da lui e lui ancora dice: guardi, purtroppo non ho il biglietto. E lui gli dice: per questa volta basta questo. 349-238-6666. Chissà che fine ha fatto sia quel ragazzo sia il controllore. Ma questa invece è la storia decisamente che vince oggi. È arrivata via mail, me l'ha mandata Filippo. A proposito di sconosciuti, e risponde sostanzialmente a una domanda: quando uno sconosciuto lo rivedi due volte, lo rivedi tre volte, alla quarta volta è ancora uno sconosciuto? Ho incontrato una sconosciuta 4 volte e alla quarta ho deciso che non lo era più. 15 anni fa, nel 1998, ero in vacanza in Australia con la mia fidanzata di allora. Stavamo facendo un giro delle maggiori città e una sorta di safari nell'Outback. Una sera, poco prima di partire, ci trovavamo a Melbourne e fummo derubati del portafogli su un autobus della città. Scesi da quell'autobus ci accorgemmo che anche un'altra coppia era stata derubata. Una ragazza e un ragazzo, che ci aiutarono con la lingua andando a fare insieme la denuncia alla polizia. Ci salutammo e 2 giorni dopo partimmo. Passano 3 anni. Nel 2001 sono a Chicago, dove sto trascorrendo qualche settimana ospite da un amico, perché ho bisogno di cambiare aria. Lì una sera andiamo a cena da amici suoi, anch'essi ricercatori universitari. E in mezzo a quella decina di persone, io non ho un minimo di esitazione nel riconoscere la ragazza australiana compagna di sventura su quell'autobus. E con il mio inglese ancora zoppicante le chiedo se si ricorda di me. Tra lo stupore di tutti, lei conferma e passiamo la serata a parlare di quelle banalità tipo quanto è piccolo il mondo, che tradotto nel mio inglese diventa una sorta di how much small is the world. Trascorrono altri 5 anni, ormai è il 2006. Io sono tornato in Italia e faccio il tassista a Roma. Una mattina di dicembre, che tutto sembra andare storto, all'aeroporto carico 2 donne, credo madre e figlia, che mi chiedono di portarle in una via del quartiere Prati. Parlano inglese e io voglio pensare ad altro. Ascolto la radio e non guardo quasi nemmeno nello specchietto. Arriviamo a destinazione e quando mi giro per prendere il resto, sento una delle due che dice qualcosa di incomprensibile e poi ripete la frase «How much small is the world?», mettendosi a ridere. Ci riconosciamo ormai. Io so che lei si chiama Shelley e lei che io sono Filippo. È ufficialmente la sconosciuta che ho visto di più nella mia vita. Prova a dirglielo in inglese, non so se capisce, ma glielo dico uguale. Scopro che è lì perché la madre è un artista e ha una mostra in una galleria del quartiere Prati, appunto. La saluto, ma ci penso tutto il giorno. Torno a casa e controllo su internet le date della mostra, che sta lì per 20 giorni, ma leggo che l'autrice è presente solo all'inaugurazione del giorno dopo. Quindi immagino che la figlia sarà lì anche lei per pochi giorni. E così, il giorno dopo, questa volta non per caso, vado all'inaugurazione. Mi presento con la mia frase ormai di rito. Lei ride e scopro che non si ferma solo pochi giorni, ma che resta a Roma 3 mesi per un corso di lingua. Di anni oggi ne sono trascorsi altri 7 e quella sconosciuta incontrata per caso è diventata mia moglie. So che la storia è assurda e quindi ti allego una foto che spero ne dimostri l'autenticità. Ciao, Filippo. I heard your suffering. Come be a wild thing. Come run with Jackie. Me and this lady. The stupid house you made fell away like paper lace. Come run with Jackie, me and this lady. E mentre ci arriva un tweet direttamente a voi siete qui R24 di Monica che ci scrive: bella puntata, vi seguo da Islamabad. Invito chiunque stia ascoltando da qualunque posto nel mondo a twittarci dove si trova o a scriverci al 349 238 6666, dove si trova, magari anche perché cosa ci fai Monica a Islamabad. Ha avuto un successo incredibile la storia di Filippo che vi ho appena letto, l'ho pubblicata sul profilo Facebook praticamente un attimo fa. Voi siete qui Radio 24, quindi se volete rileggervela andate a leggervela lì, e ha un sacco di condivisioni e i commenti più che altro sono divertenti. Ci sono, si dividono in 2 i commenti: gli uomini che dicono che culo e le donne che dicono cose tipo ho sempre saputo che esistono le storie da film, il pensiero di una sognatrice non si sbaglia mai. Abbiamo finito anche oggi, io ringrazio Fabio Cantadori, Tiziano Bonini e Margherita Ina. È un bel venerdì, danno le previsioni, dicono che inizi la primavera da domani, allora godetevela. Ci sentiamo lunedì. La storia di oggi era la storia di Roberto e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Giampaolo, sono un imprenditore, vivo tra Bergamo, Milano e Rimini. La storia di lunedì è la mia, parla di un periodo che io ho vissuto in collegio. Questa è la mia storia e io sono qui. (Susurra)